Buonasera a tutti, quindi iniziamo anche per stasera. Di solito penso che andremo ad iniziare intorno alle 18.15 ogni sera. Io sono Amos Bianchi. Oggi, nell'appuntamento di oggi del seminario, finiremo la parte sviluppata da Antonio Caronia, presentata da Antonio Caronia nell'appuntamento precedente, concernente questa storia molto veloce, molto sintetica del soggetto nella cultura occidentale, andando a vedere due autori fondamentali del 1900, cioè Martin Heidegger e Edmund Husserl, di cui daremo solamente i concetti fondamentali. Questo esaurirà, penso, i primi 20 minuti, mezz'ora dell'appuntamento di stasera, dopodiché affronteremo un testo con cui con Antonio Caronia si è deciso di iniziare questo ciclo di appuntamenti su Foucault, cioè il primo testo foucaultiano che andiamo ad approfondire. Penso sia stato ricevuto dagli iscritti al mailing via email, e il titolo è Il soggetto e il potere. Ne leggeremo la prima parte, perché studiare il potere è la questione del soggetto. E non andremo ad esaurire chiaramente il tema del soggetto, quello genealogico in ambito foucaultiano, perché sarà proprio l'esito dei prossimi 12 appuntamenti. Semplicemente andremo a circumnavigare intorno a questo tema per iniziare a capire, soprattutto in relazione alle posizioni che abbiamo visto la settimana scorsa, che cosa dice Foucault riguardo al tema del soggetto, in questo caso il soggetto visto nell'ottica del potere. Non so se l'ho già detto, valuteremo poi se fare una breve pausa o meno durante l'appuntamento di stasera, per non arrivare alle 8 con il senza fiato. Allora, iniziamo da Martin Heidegger, uno dei filosofi che assolutamente hanno maggiormente condizionato tutta la filosofia, direi, degli ultimi 85 anni. Chi è Heidegger? Filosofo tedesco. Oggi vedremo solamente l'inizio del testo principale di Heidegger, che è Essere Tempo, di cui qua porto la tradizionale versione longanese italiana, ultimamente uscita anche per gli Oscar Mondadori, un'altra ipotesi di traduzione. Prego. Continuo. Che cosa andiamo a vedere di Essere Tempo, perché andiamo a vederlo? Cos'è Essere Tempo? Essere Tempo è un testo pubblicato da Heidegger nel 1927. È un testo che rappresenta una specie di magnifico fallimento all'interno della storia della filosofia. Perché è un fallimento? Perché quello che noi vediamo oggi, cioè circa 500 pagine nella traduzione italiana, rappresenta solamente due delle sei sezioni che costituivano il progetto originario del libro. Cioè, quando Heidegger concepisce negli anni 20 la scrittura di Essere Tempo, pensa di andare a scrivere questo libro diviso in due libri e di tre sezioni ognuna, quindi sei sezioni, ma ne scrive solamente due. Perché ne scrive due? È una delle questioni più famose e più importanti della storia della filosofia del Novecento, perché, come sostiene nella lettera sull'umanismo, ritiene che il linguaggio sia crollato nella scrittura di Essere Tempo, cioè il linguaggio filosofico che Heidegger stava cercando di utilizzare nella scrittura di questo testo non fosse sufficiente a supportare lo sviluppo di questo testo. Perché non sarebbe stato, nelle intenzioni di Heidegger, sufficiente il linguaggio? Perché questo testo si inserisce pienamente comunque in quella sorta di storia d'evoluzione del soggetto che abbiamo visto la settimana scorsa. Qual è il tema heideggeriano? Heidegger è molto preciso e molto lineare nello sviluppo di quest'opera. Quest'opera, Essere Tempo, parte da un punto fondamentale, che è l'essere. Heidegger ritiene che nella metafisica propria della filosofia occidentale ci sia stato una specie di smarrimento del senso dell'essere. Cos'è l'essere? L'essere è una delle parole più vaghe all'interno del vocabolario filosofico. Come tante altre parole, tentare una definizione univoca del concetto di essere è difficile e allo stesso tempo inutile, perché in base all'ontologia di base, alla metafisica di base, al riferimento concettuale di base si possono dare differenti definizioni dell'essere. Noi possiamo avere un essere come esistenza. Io sono. Io esisto in questo momento, in questo senso. Possiamo dare una definizione dell'essere come identità. Io sono me stesso in quanto non sono qualcun altro, non sono qualcuno di voi. Possiamo dare una definizione dell'essere più legata al linguaggio e alla grammatica. Io sono vestito, questo libro è marrone, eccetera. Quindi l'essere è un concetto vago, sfaccettato. Ma in che senso Heidegger dice che l'Occidente ha misinterpretato il concetto dell'essere? Secondo Heidegger, l'Occidente, a partire da Platone in poi, ha confuso l'essere con gli enti, ovvero ha confuso quello che noi possiamo dire di questa penna, che è un ente, che è questa penna, l'ha confuso con l'essere stesso, cioè con ciò che renderebbe possibile metafisicamente la condizione di esistenza di questa penna. E quando è nata questa confusione? Nasce con Platone. Fondamentalmente in Platone noi abbiamo la posizione dell'idea del bene. Non voglio entrare in questioni platoniche in senso stretto, ma quando Platone definisce la gerarchia delle cose che esistono, pone in cima l'idea del bene, e l'idea del bene è l'essere. Il cristianesimo, che è una forma di neoplatonismo, erediterà questa forma di misconoscenza dell'essere, andando a stabilire un'equivalenza troppo stretta tra essere e Dio. E quindi i 2500 anni di filosofia occidentale sarebbero caratterizzati, secondo Heidegger, dalla confusione fra questo piano dell'essere e il piano invece di ciò che è, degli oggetti intramondani, delle cose che noi incontriamo nel mondo, mentre l'essere andrebbe a porsi su un piano differente. E quindi ripartire da zero, e quindi il progetto di essere e tempo. Quindi una domanda, la domanda sull'essere, il tentativo di recuperare l'essere in una maniera che l'Occidente aveva ignorato nei precedenti 2500 anni, un luogo in cui andare a cercarlo, oppure gli enti, ma soprattutto, e qui ci leghiamo alla questione del soggetto, un qualcosa che deve essere interrogato sull'essere. E cos'è questo qualcosa che deve essere interrogato sull'essere? Heidegger introduce una delle parole fondamentali della filosofia degli ultimi 85-90 anni, che è il Dasein, l'esserci. Cos'è questo esserci? In tedesco Dasein, siamo noi. Assolutamente siamo noi individui, esseri umani in carne e ossa, persone che esperiamo il mondo, uomini in senso generale, soggetti, se vogliamo utilizzare una parola che potrebbe generare tantissimi equivoci, ma per ritornare sulla linea della volta precedente. Quindi, sein, essere, infinito del verbo tedesco, da, ci restituisce il ci. Adesso andiamo a interpretare meglio il Dasein. Però perché è il Dasein che va interrogato? Cioè siamo noi che ci dobbiamo interrogare sul senso dell'essere? Direi per due motivi, schematizzando. In primo luogo perché questa penna, perché questo tavolo, perché una pianta non ne sanno nulla del senso dell'essere. Non conoscono l'essere. Sembra banale, ma è un punto di partenza assolutamente fondamentale. In secondo luogo, e qua Heidegger introduce una riflessione che caratterizzerà tanta parte di essere tempo, perché la questione dell'essere è assolutamente basilare per il Dasein, perché a differenza degli altri enti che ci sono nel mondo, noi progettiamo il nostro essere. Cioè noi, in quanto esseri umani, siamo ciò in cui l'essere è costitutivo del proprio essere. Cioè noi non possiamo pensare la nostra esistenza, poi vediamo meglio questo discorso dell'esistenza, che in Heidegger è una parola assolutamente precisa e fondamentale, senza prendere in considerazione la questione del nostro essere, cioè di ciò che siamo, di ciò che siamo stati, di ciò che saremo. Questa è la premessa di Essere Tempo, questa è l'introduzione di Essere Tempo, cioè un percorso che parte da un problema, il misconoscimento nella cultura occidentale della questione dell'essere, arriva a individuare un qualcosa, l'esserci, un qualcosa che bisogna interrogare, che bisogna analizzare per comprendere la questione dell'essere. Qual è poi il fallimento di Heidegger? Che alla fine della seconda sezione di Essere Tempo si rende conto che il linguaggio che lui sta utilizzando nella scrittura di questo testo è ancora un linguaggio che appartiene alla tradizione filosofica che vorrebbe rimuovere, e quindi il linguaggio che sta utilizzando nella scrittura di Essere Tempo gli è impossibile per compiere questa transizione dal soggetto, come a un certo punto usa la parola soggettività, alla questione dell'essere. Abbandona l'opera. Heidegger ha una carriera, si direbbe oggi, molto lunga, muore nel 1976, 49 anni dopo la scrittura di Essere Tempo, 49 anni di riflessioni ininterrotte sul senso dell'essere. Poi ci sono anche questioni legate alla vita di Heidegger, su cui non è il caso di entrare, la famosissima adesione al partito nazista, il fatto che lui di fatto abbia esautorato il suo grande maestro Edmund Husserl, che poi vedremo da qualsiasi funzione di insegnamento, e ridusse veramente male gli ultimi 10 anni della vita di Husserl. Questa cosa, il fatto che gli venne impedito di insegnare dopo la Seconda Guerra Mondiale, il fatto che comunque continuò a produrre, essendo una delle figure di riferimento, degli intellettuali di riferimento del XX secolo, che ha toccato temi dall'arte alla tecnologia in maniera assolutamente precisa, profonda e fondamentale. Può piacere o può non piacere, ma il fatto che Heidegger sia uno dei filosofi di riferimento del Novecento è assolutamente indubitabile. Quindi il progetto di Essere Tempo crolla, però ci rimane la questione del Dasein. Allora, perché Dasein? Perché esserci? La particella che dobbiamo interrogare è il C, prima di tutto. Cos'è questo C? Heidegger ha un'intuizione filosofica fondamentale e, per chi si ricorda quello che è stato detto la volta scorsa, un'intuizione filosofica inevitabilmente che deve fare i conti con Cartesio. Cioè ogni filosofo dopo Cartesio non può fare meno di fare i conti con Cartesio, che è quella di dirci: noi, in quanto esseri umani, siamo sempre situati, viviamo sempre in una situazione, viviamo sempre in una situazione intramondana. In un'altra delle espressioni di Essere Tempo, che non vado ad analizzare, noi siamo sempre essere nel mondo. E secondo Heidegger, escludere questa situazione, escludere questa posizione di esserci, di essere situati tra le cose, è solamente cattiva metafisica. Noi non possiamo negare che noi siamo in quanto abitiamo in un mondo, abitiamo un mondo, in quanto viviamo una situazione, e quindi noi siamo costitutivamente degli esserci, in cui il ruolo del C è un ruolo assolutamente prioritario e fondamentale. E quindi che cosa va a dire Heidegger riguardo a questo esserci? Prima di tutto un punto che ho già enucleato prima: l'esserci non può fare a meno della questione dell'essere. L'esserci non può fare a meno della questione dell'essere situato. E come si chiama questa situazione, cioè questo esserci? Un'altra parola che è quasi sinonimo di Dasein e che aprirà delle prospettive culturali importantissime nel Novecento è esistenza. noi non possiamo pensare l'esserci senza attribuire all'esserci un'esistenza. Cos'è però questa esistenza? Ritorna qui qualcosa che è molto vicino a esserci e che è molto vicino a essere nel mondo. Secondo l'etimologia latina, noi existiamo. Cioè dal verbo existere. Cosa significa existere? Esistere restituisce la posizione dello stare. Ec restituisce la posizione dello stare fuori. Cosa significa? Che noi siamo un qualcosa che continuamente riprogetta il proprio essere, che è costitutivamente aperto verso qualcosa, verso l'esterno, verso qualcosa che non siamo noi. Quindi, intimamente, noi non possiamo pensare noi stessi come qualcosa di fissato, come qualcosa che non si evolve, come qualcosa che non cambia. Noi siamo inevitabilmente qualcosa destinato a modificarsi nel tempo. E qua voglio solo citare una delle espressioni più belle e più sintetiche della filosofia di questo testo, ma di tutta la filosofia del Novecento, che è: l'essenza dell'esserci consiste nella sua esistenza. Una frase semplicissima, fatta di tre parole chiave: essenza, esserci ed esistenza, ma che riassume perfettamente tutta l'evoluzione di questo concetto di soggettività fino in Heidegger. Cioè l'essenza, il fondamento, ciò per cui noi siamo così, non siamo qualcos'altro, dell'esserci, cioè di noi stessi, è l'esistenza, cioè il fatto che noi siamo costitutivamente aperti. Cosa significa essere costitutivamente aperti? Significa che noi viviamo, operiamo, agiamo, siamo nel mondo delle possibilità. Cioè noi non viviamo in strutture necessarie, noi in quanto esseri umani non siamo dei soggetti necessitati, ma noi viviamo sempre l'apertura, l'apertura della possibilità, che si può articolare in tantissime maniere. Heidegger dedicherà centinaia di pagine a questo. Nelle pagine successive introduce due concetti fondamentali, che sono solo nella pagina successiva, quella per cui noi siamo sempre nostri, cioè noi non possiamo abbandonare noi stessi costitutivamente. Introduce i concetti di autenticità e di inautenticità, pone il tema dell'agettatezza. Noi viviamo in un orizzonte di possibilità che nascono da un'impossibilità primigenia, che è la nostra nascita. Noi non scegliamo di nascere, né come fatto né come modalità, quindi noi ci troviamo gettati in un mondo in cui siamo necessitati a vivere, ma dopo questa necessità noi viviamo in un orizzonte di possibilità. Una volta avevo assistito a un seminario di un filosofo abbastanza eretico come Fulvio Papi, che descriveva essere tempo non come un'opera filosofica fondamentale, ma come il Bildungsroman per eccellenza del XX secolo, cioè come il romanzo di formazione del XX secolo. In effetti essere tempo è una lettura magnifica. Il problema di essere tempo è che ci sono pagine e pagine scritte in un linguaggio virtuosistico, tecnicistico, filosofico tremendo, che si lascia accedere solamente a chi sia riuscito a padroneggiare questo linguaggio. Però quello che troviamo in Essere Tempo è una descrizione della condizione umana assolutamente pertinente. Da Heidegger, giusto per concludere il discorso heideggeriano, deriveranno due orientamenti filosofici che costituiscono dei momenti fondamentali nella formazione di Foucault e due dirimpettai culturali fondamentali del suo pensiero. Da un lato tutto il filone esistenzialista, cioè quello che si fonda sia nella filosofia che nelle arti di qualsiasi genere, cioè quello per cui il tema dell'esistenza è il tema fondamentale di analisi. Dall'altro lato invece abbiamo l'ermeneutica. Perché l'ermeneutica, che è un orizzonte sfaccettatissimo di pensiero? Perché Heidegger si rende conto alla fine di essere tempo, e sarà il suo grosso rovello interrogativo per i 50 anni successivi, della questione del linguaggio. Non si può dare pensiero, non si può dare filosofia se non si dispone di un linguaggio. E quindi il tema del linguaggio diventa un tema predominante all'interno dell'apparato filosofico, all'interno degli studi filosofici. Perché il tema del linguaggio? Perché se noi non disponessimo di un linguaggio non potremmo nemmeno parlare delle cose di cui stiamo parlando. E allora viva quasi a un rovesciamento, cioè non diventa più rilevante l'esistenza di una realtà fisica. Nello sviluppo del pensiero l'aspetto più rilevante diventa ciò che il linguaggio ci consente di dire, ciò che il linguaggio non ci consente di dire e come il linguaggio ci consente di dire questo. Da qui nasce una delle tradizioni più importanti. Carlo Sini, docente di riferimento della statale, una volta a una conferenza aveva detto: a me non interessa se esista il mondo, a me interessa che esista il linguaggio. Perché in effetti, in una prospettiva filosofica rigida, ciò che importa è l'esistenza di un linguaggio che mi permetta di dire, prima di pensare e poi di dire, determinate cose. Quindi, in questo percorso di evoluzione sul soggetto, un'altra posizione, un'altra figura che siamo andati a incontrare è quella del Dasein, dell'esserci in Martin Heidegger. Come abbiamo visto, di nuovo, una lotta contro il soggetto cartesiano. È un altro autore che per tutta la vita fa i conti con Cartesio e poi con Kant e con Hume come filosofi di riferimento, è sicuramente Edmund Husserl. Husserl, maestro di Heidegger, fondatore di un'altra tradizione filosofica che costituisce uno dei pilastri del Novecento, che è la fenomenologia. Husserl che vive male gli ultimi anni della sua vita in quanto filosofo e docente ebreo nel mondo nazista, per cui è costretto a scelte di vita piuttosto radicali. Basti pensare che la sua ultima opera nel 1937, se non sbaglio, la crisi delle scienze europee, viene pubblicata a Belgrado perché gli veniva impedito di pubblicare in Germania. Il suo lavoro, che consisteva di pochi libri e di tantissimi appunti stenografi, viene portato, se non mi sbaglio, non vorrei dire un'eresia, dai monaci francescani a Lovanio, dove tuttora c'è l'archivio di Husserl, pieno di migliaia di pagine stenografate, scusate, non manoscritte, che sono ancora da leggere e da consultare. Una delle cose buffe della storia della filosofia del Novecento è che essere tempo si apre con, scusatemi che lo trovo, la dedica a Edmund Husserl con ammirazione e amicizia, Foresta Nera, 8 aprile 1926. In quei due anni Heidegger stava ammazzando suo padre Husserl. L'anno prima c'è uno dei momenti fondamentali della storia della filosofia, che è la litigata celebre tra Husserl e Heidegger sulla scrittura della voce fenomenologia per l'Enciclopedia Britannica. Poi ci si metterà la storia a far divergere completamente i due pensatori, non solo da un punto di vista filosofico ma anche umano. Cos'è la fenomenologia? La fenomenologia è un altro sistema di pensiero, un altro sistema filosofico assolutamente complesso e variegato, di cui qui oggi daremo esclusivamente qualche cenno, qualche punto fondamentale. La fenomenologia, riprendendo l'etimologia greca abbastanza semplice, scusate se spero che sia sufficientemente inquadrata. Abbiamo lo studio, chiaramente, del fenomeno. Il fenomeno da faino, verbo... Ah, scusate. Fenomeno dal verbo faino, mai, che significa apparire. Quindi la fenomenologia è lo studio, o come avrebbe detto Husserl, meglio, la descrizione di ciò che appare. L'importante è interrogarsi e capire su che cosa significhi questo ciò che appare. E fenomenologia, che è un'altra disciplina che ha condizionato non solo la filosofia, ma che ha avuto degli sviluppi fondamentali in ambito psicologico, psicanalitico, un autore come Milan Kundera, un narratore, nel suo primo saggio teorico, L'arte del romanzo, dice che la sua letteratura, la sua narrativa è fenomenologia, interpretata in questo caso come descrizione della vita. Di Husserl ho preferito non dare un testo, perché il pensiero di Husserl fenomenologico ha una certa evoluzione e si sparpaglia in più opere. Più o meno dall'inizio del 1900, mi sembra L'idea della fenomenologia, che è un testo breve e molto chiaro del 1905, fino a quando muore nel 1938, e La crisi, cui accennavo prima, viene pubblicata postuma dopo la Seconda Guerra Mondiale. Però i temi ricorrono, e il primo tema fondamentale della fenomenologia da porre è quello dell'epochè. Parola greca, la sospensione del giudizio. Perché per fare fenomenologia è necessario sospendere il giudizio? Perché il tema fondamentale della fenomenologia è recuperare un rapporto in chiave conoscitiva, in chiave esperienziale, diverso tra il soggetto e il mondo, tra l'io e il mondo. Un qualcosa che cerchi di superare quella divisione abominevole cartesiana tra res cogitans e res extensa che Caronia aveva introdotto la volta scorsa. E quindi la sospensione del giudizio. Cosa significa sospendere il giudizio? Significa mettere tra parentesi tante domande inutili, tante domande metafisiche, tante domande che non possono trovare una risposta immediata. Domande come: esiste in questo momento il Duomo di Milano? Nessuno di noi lo può asserire, è una domanda puramente metafisica, se noi stiamo lavorando in un puro ambito fenomenologico. Probabilmente c'è, ma, ripeto, all'interno di un contesto di lavoro fenomenologico non ha senso. Domande come: che rumore fa un albero che cade se nessuno lo sente? È del tutto irrilevante se nessuno lo sente. Poi, sospendere il giudizio. Un altro punto fondamentale, quindi non solo mettere tra parentesi un atteggiamento conoscitivo sbagliato, ma sospendere il giudizio. Sospendere il giudizio nel senso di avvicinarsi in un nuovo rapporto alle cose in maniera che non ci sia un pregiudizio. Cioè, ripensare un rapporto descrittivo, conoscitivo con il mondo che non sia basato su tutta una serie di sovrastrutture, o meglio di pre-strutture conoscitive, che possano andare a condizionare questo rapporto che noi abbiamo con il mondo. E quindi nel momento in cui io parlo di un oggetto come questo, forse sarebbe un discorso inutile questo, oppure parlo di un oggetto un po' più complesso, un'opera d'arte, un quadro, oppure parlo di un oggetto ancora più complesso come la vita, io posso evitare di portarmi dietro tutta una serie di precognizioni che vadano ad influenzare quello che io sto andando a descrivere, ma riesca ad andare, appunto, uno dei motti della fenomenologia, verso le cose stesse in maniera assolutamente quasi ingenua. Questo significa, per Husserl, sospendere, un'altra parola molto importante nel metodo fenomenologico, l'atteggiamento naturale. L'atteggiamento naturale è quello con cui noi viviamo tradizionalmente la nostra vita. L'atteggiamento naturale è quello con cui, quando noi instauriamo un dialogo con una persona o procediamo con una descrizione con qualsiasi cosa, comunque viviamo, lasciamo che le cose scorrano, ci lasciamo portare dietro qualcosa, tanto, e noi interpretiamo in base a questo qualcosa che ci portiamo dietro quello che ci troviamo di fronte. Una delle cose che noi ci portiamo dietro e che costituirà uno dei bersagli fortissimi dell'ultimo Husserl è la questione delle scienze. Nell'époque rientra anche il fatto che il soggetto occidentale, ripeto le date 1936-37, in realtà la crisi che sviluppa di più questo punto è una raccolta di conferenze di quel periodo, si porta dietro tantissimo una, potrei dire quasi, comprensione, percezione dell'esistenza del mondo terribilmente fondata su un apparato scientifico che nasce dalla rivoluzione scientifica del XVII secolo e che va, è andato ad erodere tanto una visione del mondo che secondo Husserl dovrebbe essere fondata su aspetti differenti. Cioè, Husserl sta dicendo nel 1937, io vedo un destino inarrestabile nell'Occidente che è quello di andare a scientizzare tutto. E qual è lo spettro di Husserl? Che questa scientizzazione vada a coinvolgere quello che Heidegger chiamava esistenza, che Husserl preferisce chiamare vita. Cioè che anche noi scordiamo nel nostro vivere tutta quella parte di vita che secondo Husserl la scienza non riuscirà mai a ridurre. Questa parte di vita può essere chiamata tranquillamente la parte estetica della nostra vita, la parte basata sui sentimenti, sulle sensazioni, sugli affetti. Quello che Husserl dice nel 1937 è: la scienza ci sta mangiando anche questa modalità di esistere. Non è solo un mangiare una modalità di esistere, perché in effetti il pensiero husserliano è molto articolato e si fonda su un presupposto fondamentale. Si fonda sul presupposto che quando noi andiamo verso le cose stesse, non andiamo verso le cose stesse con gli assi cartesiani, con l'apparato di misurazione del geometra dell'esistenza, ma che noi andiamo verso le cose stesse in una maniera che Husserl definisce prelogica. Ovvero, la nostra prima maniera di essere nel mondo non è una maniera fondata sulla razionalità del discorso. La nostra prima maniera di essere nel mondo è una modalità prima del discorso, una modalità estetica. Perché è una modalità estetica? Perché è una modalità che nasce dal corpo. Cioè, noi viviamo in un mondo prelogico in quanto siamo prima di tutto corpi. Non siamo le res cogitantes cartesiane che pensano un mondo, che razionalizzano un mondo. Noi siamo prima di tutti corpi che esperiscono un mondo, che sentono una determinata temperatura, una determinata circolazione dell'aria, che percepiscono un mondo. Chiaramente Husserl non è un pensatore ingenuo. Dopo questa comprensione prelogica del mondo, è chiaro che ne discende una logica. Ma il ribaltamento husserliano è fondamentale. È il mondo prelogico che governa il mondo logico. Non è il mondo logico nell'apparato fenomenologico che governa il mondo prelogico. Cioè, non è la logica che subordina l'estetica, è l'estetica che subordina la logica. E in quanto corpi, l'estetica, secondo Husserl, secondo una tradizione che possiamo far risalire almeno fino al 1600 culturalmente, il mondo estetico è irriducibile. Noi non riusciremo mai a razionalizzare il mondo. Ci sarà sempre un pezzo di mondo che in questo nostro rapporto con le cose andrà razionalizzato. Altro punto husserliano fondamentale, dopo questa sorta di fondazione del nostro rapporto col mondo. Antonio Caronia aveva introdotto la volta scorsa il rapporto trascendenza e immanenza. Se la trascendenza sono le cose fuori di noi, in maniera molto semplice e banale, quello che io ho qui di fronte a me in questo momento, e l'immanenza sono i miei contenuti di coscienza, come si saldano le due cose? Secondo Husserl è cattiva metafisica pensare che noi non siamo corpi che vivono in un mondo. Cioè, secondo Husserl, mettere in discussione il fatto che io in questo momento stia esperendo fisicamente col mio corpo un ambiente è quasi ridicolo. Cioè, pensare che io stia vivendo un film solipsistico nella mia testa, per cui voi siate una mia proiezione mentale e basta, non ha senso. Quello che teoreticamente va fondato è questa relazione fra questa trascendenza che siete voi e quello che è l'immanenza, cioè il mio contenuto di coscienza. Quello che Husserl introduce è un nuovo concetto che sarà fondamentale nell'ambito fenomenologico ed è quello di intenzionalità. L'intenzionalità è ciò che ci consente di connettere quello che è il nostro vissuto intenzionato, cioè il fatto che io abbia quella determinata persona in questo momento di fronte a me, e l'oggetto intenzionato, cioè il fatto che quella persona sia lì in questo momento. Noi abbiamo una relazione inevitabilmente bionivoca tra le due cose, e questa relazione inevitabilmente bionivoca si chiama intenzionalità. Ok? Per cui io non posso pensare di scindere questi due aspetti tra di loro, ma coesistono sempre come due poli. Husserl parla in un passaggio della fenomenologia come del massimo dell'idealismo e del massimo del realismo allo stesso tempo. Perché? Perché ha posto l'intenzionalità, perché ha posto un qualcosa per cui realismo e idealismo non possono essere più scissi, non possono essere più divisi. Non posso pensare solamente all'esistenza di un mondo fuori di me o solamente all'esistenza di un mio contenuto mentale. Nella fenomenologia, con tutto un apparato teorico che adesso non saprei nemmeno onestamente spiegare in questo momento, ma che richiederebbe tanto tempo, le cose coesistono in maniera assolutamente precisa. Che cosa rimane quando noi togliamo le cose? Per aggiungere un'ulteriore parola, rimane la coscienza. La coscienza è quello che Husserl chiama residuo fenomenologico. La coscienza è la condizione limite della impossibile inesistenza del mondo. In Husserl, quindi, abbiamo il polo coscienziale e il polo del corpo. Il corpo non è pensabile senza una coscienza, la coscienza non è pensabile senza un corpo. Sarebbe interessantissimo una macchina che producesse della fenomenologia senza corpo come esperimento limite. Un accenno sul corpo. Sì, sì, no, no, ci mancherebbe. Noi abbiamo detto prima siamo corpi, ok? E siamo arrivati con una strada ai corpi. Come siamo arrivati alla strada della coscienza? Noi inevitabilmente passiamo dal corpo, non possiamo non passare dal corpo, ma la coscienza, ciò che lui chiama coscienza, è quel residuo, è quello sfondo di possibilità entro cui si vanno a collocare tutti i contenuti di ciò che è trascendente rispetto a noi. Ok? Poi Husserl, che non è un pensatore ingenuo, costruirà sulla temporalità la coscienza. Cioè, la nostra coscienza non è la tabula rasa aristotelica su cui si vanno a incidere nel tempo i segnetti, ma è un flusso ininterrotto di esperienze, essendo allo stesso tempo la condizione di possibilità dell'esistenza di queste esperienze. Un brevissimo accenno sul corpo. Husserl usa una parola in tedesco assolutamente precisa che è Leib, L-E-I-B, in opposizione a un'altra parola tedesca che è Körper. con umlaut. Il Körper è il nostro corpo inteso in senso fisiologico, noi in quanto carne pulsante, quanto flesh proprio. Leib invece è il nostro corpo in quanto esseri umani, ok? È ciò per cui io sono differente da ciascuno che c'è qui in questo momento e ognuno di noi è differente rispetto agli altri, ma tutti condividiamo una modalità di esperienza e questa esperienza è il fatto che abbiamo, questa modalità di esperienza è il fatto che abbiamo un corpo, ok? Husserl usa una parola specifica che è Leib. Perché è importante che Husserl usi Leib e non Körper? Perché se noi usassimo Körper entreremmo nel relativismo assoluto, perché dovremmo iniziare a ipotizzare tutta una serie di mondi differenti per ognuno di noi, dovuti al fatto che ognuno di noi ha un assetto fisico differente rispetto agli altri. Invece, fondando una struttura, direi quasi trascendentale e comune, può risolvere un problema conoscitivo fondamentale. Qual è questo problema conoscitivo? E questo è allo stesso tempo la bellezza e forse il fallimento della fenomenologia. Il problema conoscitivo è che la conoscenza non è soggettiva, ma è sempre intersoggettiva. Ovvero, io quando mi pronuncio su qualcosa non mi sto pronunciando come essere autonomo, isolato del mondo, ma mi sto pronunciando sempre costitutivamente come essere umano in dialogo con altri esseri umani. E quindi la conoscenza, poniamo la conoscenza di un'opera d'arte, la conoscenza di un quadro, non è un'operazione fenomenologica che io esercito in maniera del tutto isolata, ma un'operazione fenomenologica che io esercito insieme a X persone che l'hanno esercitata prima di me e la eserciteranno dopo di me e la esercitano durante la mia vita. Quindi la conoscenza non è un dato assoluto quando arriviamo a questo, ma la conoscenza è un flusso temporale in continua evoluzione. È un pensiero molto affascinante, allo stesso tempo difficile da accettare, perché significa che un pronunciamento definitivo non esiste, significa che il tempo è un fattore sempre costitutivamente fondamentale per la costituzione delle conoscenze. Questa intersoggettività, e poi vado a chiudere su Husserl, ha altri due sinonimi, che non sono esattamente dei sinonimi in senso proprio, ma sono due concetti che si avvicinano notevolmente. Scusate se... Uno è quello di Lebenswelt. L'altro è quello di intenzionalità fungente. Cos'è il Lebenswelt? E cosa c'entra con l'intersoggettività? Noi siamo uomini che incontrano altri uomini nel mondo. Questo mondo prelogico, secondo Husserl, si chiama Lebenswelt, il mondo della vita. Cioè, Husserl non è un vitalista ingenuo, però dice, e anche qui uno dei limiti della sua filosofia, questo acceso umanesimo, d'altronde Husserl scrive tra le due guerre, l'aspetto fondamentale che alla fine la fenomenologia deve andare ad affrontare è la vita, e il mondo della vita è quello che deve andare a descrivere la fenomenologia. Questo mondo della vita è la situazione che noi stiamo banalmente vivendo, cioè il fatto che siamo una ventina di esseri viventi in questo momento chiusi in una stanza con determinate esperienze, con determinati vissuti. Il mondo della vita è il fatto che qui all'interno c'è una componente razionale, diremmo, ma soprattutto c'è una componente estetica che domina completamente questa componente razionale. Il mondo della vita è quel qualcosa che siamo noi, che nessun Cartesio, nessun Galileo, nessun Newton potranno mai andare ad esaurire. Il mondo della vita, e qua introduco l'ultima parola husserliana e poi finiremo, è l'intenzionalità fungente. Cos'è l'intenzionalità fungente? Noi prima abbiamo detto cos'è l'intenzionalità. Nel momento in cui io focalizzo i miei pensieri, focalizzo sarebbe una parola che Husserl avrebbe detestato, su questa, intenziono questa penna, questo pennarello, io sono in una modalità di intenzionalità d'atto, avrebbe adesso detto Husserl, con questa penna. Però, pennarello, al di là di questo pennarello che io ho di fronte in questo momento, ci sono di fronte a me altre cose, ok? Queste cose sono l'intenzionalità fungente, cioè è l'orizzonte pressoché infinito di possibilità che la mia vita mi riserva, di possibilità conoscitive, direi meglio di possibilità esperienziali. Quindi io in ogni momento della mia vita sono in un processo intenzionale con qualcosa. Sono già le 7. Però allo stesso tempo questo processo intenzionale è basato sul fatto che esiste al di fuori di quello un mondo di possibilità infinite che posso andare ad intenzionare. Scusate, sono andato lunghissimo, di almeno un quarto d'ora, quindi chiudo questa parte. Ci sono domande su questo? E arriviamo a Michel Foucault. Allora, abbiamo chiuso questo panorama sulle questioni relative al soggetto. Il soggetto è stato classificato, è stato nominato in tanti modi, è stato nominato Vescoggi in tanto soggetto, io penso, coscienza, intenzionalità, esserci, eccetera, eccetera. Adesso è il momento di arrivare a Michel Foucault. Come dicevo prima, chi è Michel Foucault? È uno dei più importanti pensatori del XX secolo, in assoluto. Foucault dice a un certo punto della sua esistenza, un giorno il secolo sarà deleuziano. Per lunghi anni si stimavano sempre, furono anche dei grandissimi amici, Foucault e Deleuze, poi la filosofia li portò in direzioni differenti, tuttavia è possibile forse parafrasare dicendo che un giorno il secolo, questo secolo sarà foucaultiano, non per amore verso questo autore, ma perché Foucault ci ha consegnato un corpus importante. Foucault muove presto, nasce nel 26, muove nell'84, non voglio entrare nelle questioni personali relative alla vita di Foucault, danno e tolgono poco rispetto a una comprensione dell'opera, comunque muove solo 58enne, rispetto ai 50-60 anni di produzione teorica di un Heidegger, la produzione foucaultiana è breve. Il suo primo testo importante è del 61, La storia della follia, l'ultimo testo è dell'84, quindi stiamo parlando di un arco temporale di solamente 23 anni. Si afferma come uno dei maîtres à penser della cultura francese, è noto anche all'estero, è noto in Italia, per tutta una serie di sue posizioni personali viene attaccato da più fronti, perché da qualsiasi fronte probabilmente, perché propone una posizione filosofica originale, una posizione filosofica nuova, perché, come avrebbe detto qualcuno che non ricordo chi è, fa filosofia col martello. Foucault è uno dei grandi distruttori, oltre a essere uno dei grandi costruttori della storia della filosofia. Concepisce un'ultima opera, una storia della sessualità in 6 volumi, di cui riesce a scriverne solamente 3, perché poi muore, 3 volumi in cui tratta la Grecia, gli altri 3 sarebbero stati sul cristianesimo, e non li scriverà mai, lascerà solo una serie di conferenze, di pubblicazioni, di appunti, di lezioni su questo. E il suo pensiero si diffonde sui libri, sulle lezioni che tenne al Collège de France, su tantissime interviste, su tantissime pubblicazioni su riviste. Foucault aveva 2 linee nel suo pensiero, una linea istituzionale, quella dei libri, e una linea di ricerca che era quella dell'insegnamento, delle interviste, delle pubblicazioni sulle riviste. Quello che andiamo a fare oggi è un po' partire dal fondo, cioè andare a leggere un suo testo dell'82 per cercare di capire, leggendo Foucault stesso, perché la questione del soggetto è così importante in Michel Foucault. È un testo breve, è un testo contenuto in questo libro, scritto da due autori americani con cui Foucault lavorò all'inizio degli anni 80 all'Università di Berkeley, Dreyfus e Rabinow, La ricerca di Michel Foucault, analisi della verità e storia del presente, che se non mi sbaglio è suggerito come uno dei testi base del corso. È suggerito come uno dei testi base perché è un ottimo riassunto, forse un po' vecchio adesso, della produzione foucaultiana. E allora, chi ha portato il testo? Comunque lo leggerò i passaggi fondamentali. Quindi è contenuto da pagina 279 a pagina 287, il soggetto e il potere. Vedremo perché queste due parole. Foucault come inizia? Le idee che vorrei discutere qui non rappresentano né una teoria né una metodologia. È vero, Foucault non propone teorie, Foucault non propone metodologie, Foucault propone delle ricerche, fondamentalmente. E quindi il fatto di estrapolare delle teorie e delle metodologie sta forse a noi, non è parte integrante del pensiero di Foucault. Forse però sta a noi, più che trovare delle teorie e delle metodologie, sta a noi trovare degli strumenti di analisi che permettano di continuare, chiaramente se interessa, non c'è niente di obbligatorio nella vita, continuare con quello che Foucault aveva seminato nei suoi 25 anni di esistenza. Questo testo si apre con un punto piuttosto interessante, cioè siamo nell'82, 2 anni prima di morire, e Foucault dice una cosa abbastanza precisa su quello che è stato il suo pensiero. In primo luogo vorrei dire qual è stato lo scopo del mio lavoro nel corso di questi ultimi 20 anni. Non si è trattato di analizzare i fenomeni di potere e neppure di elaborare i fondamenti di una tale analisi. Qua si torna spesso sul potere perché il potere è uno dei temi fondamentali di Foucault, ma in secondo luogo perché aveva sollevato un vespaio in quegli anni, l'analisi del potere che Foucault stava facendo, e quindi veniva contattato tantissimo per parlare di potere. Noi vedremo la questione del potere, oggi inizieremo a dirne qualcosa, ma soprattutto quella del soggetto. Il mio obiettivo, piuttosto, è stato di fare una storia dei differenti modi di soggettivazione degli esseri umani nella nostra cultura. Ecco perché con Antonio abbiamo scelto di partire da questo testo, perché uno dei temi di filologia foucaultiana, veramente poco significativi per questo seminario, ma che stanno alla base degli studi su Foucault, è quello. Ci sono dei periodi differenti, oggettivamente, nella produzione di Foucault. C'è un tema che li unisce, è Foucault stesso che ha risposto. Il tema che ho voluto trattare per tutta la vita sono i soggetti. E come dirà fra 6 pagine, cos'è il soggetto? È quel concetto che io utilizzo, lo sto dicendo con parole mie, per cercare di rispondere alla domanda chi siamo qui e ora. Il punto fondamentale della produzione di Foucault non è l'analisi del sapere, non è l'episteme in parole le cose, non è tantomeno la sessualità. Il punto fondamentale dei 25 anni della produzione di Foucault è comprendere il soggetto. Non definire una teoria del soggetto, ma scavare la storia dell'Occidente per capire perché noi siamo quello che siamo, qui e ora. Nel mio lavoro, e qua inizia una sorta di resumé brevissimo molto bello, ho considerato i 3 modi di oggettivazione che trasformano gli esseri umani in soggetti. Foucault sembra facile da leggere sempre, in realtà quando usa le parole le usa come delle pietre, e il lessico è semplice, l'apparato teorico dietro questo lessico non è mai semplice. Ho considerato i 3 modi di oggettivazione che trasformano gli esseri umani in soggetti. Quindi, noi ci troviamo in una condizione di vita, 1982, noi Occidente, ok, in cui siamo dei soggetti in quanto siamo stati oggettivati, in quanto si dà a noi stessi la condizione di comprenderci come oggetti, la condizione di descriverci come oggetti. Per cui io posso rispondere alla domanda che cosa sono? Posso rispondere alla domanda che cosa sono perché sono in grado di pensarmi come un oggetto. ok? Questo però, certo, sono nato e mi sono trovato questa tradizione culturale. Foucault va ad analizzare storicamente, a ricercare storicamente quale sia questo tipo di eredità che lui trova. E dice: il primo è quello dei modi di indagine che cercano di dotarsi dello statuto di scienza. Cioè, nel mondo occidentale, quello che ci ha costruiti in una certa maniera è ciò che noi chiamiamo scienza. E sarà le parole e le cose, a cui dedicheremo la quarta e la quinta sessione di questo seminario, a sviscerare profondamente questa costituzione, che è storica, non è data per sempre, è storica del soggetto come da un punto di vista scientifico. E quindi l'oggettivazione del soggetto parlante nella grammar general, nella filologia e nella linguistica. Primo, noi come soggetto parlante parlato. Secondo, sempre in questo primo modo, l'oggettivazione del soggetto produttivo, cioè del soggetto che lavora, l'analisi delle ricchezze dell'economia. Noi come lavoratori, come produttori, noi come homo faber, noi come homo faber non è un'espressione giusta, come soggetti produttivi. Qua Foucault non sta parlando di principi astratti, noi siamo nell'epoca contemporanea prima di tutto dei soggetti produttivi e lui va a ricercare perché siamo arrivati qui, ok? Infine, come terzo esempio, l'oggettivazione del semplice fatto di essere vivi nella storia naturale o nella biologia. Io che comprendo me stesso come carne, ma non come carne pulsante, come carne che si inquadra in un apparato scientifico relativo al mio fatto di essere un essere vivente in una certa maniera, la mia chimica, la mia fisica, il mio aspetto biologico, il mio aspetto zoologico e così via. Noi quindi ereditiamo questi tre punti, linguaggio, lavoro, biologia, perché non è qua. Sembra banale nel 2011, non è banale, non perché noi siamo dati così per essenza, ma perché noi viviamo in una tradizione culturale che fa sì che noi percepiamo noi stessi in questa maniera e non in un'altra. Noi, anticipando un pochino certi temi, siamo sempre soggetti storici. E in questo senso siamo sempre relativi, non c'è niente di assoluto nella fondazione di noi stessi. Andando avanti, nella seconda parte del mio lavoro, che poi sarebbe la storia della follia del 61 e la nascita della clinica del 63, ho studiato l'oggettivazione del soggetto in ciò che chiamerei pratiche di divisione. Cosa vuol dire? Il soggetto risulta diviso sia al proprio interno che dagli altri. Ed è questo processo oggettivarlo. Le separazioni tra il folle e il normale, il malato e il sano, il criminale e il bravo ragazzo ne sono degli esempi. Questa è tutta la parte della produzione foucaultiana che va a indagare come a un certo punto della storia del pensiero occidentale siano nate queste categorie. Perché il folle è il giullare medievale e il folle viene rinchiuso alla fine del 1700? Il folle è quello sottoposto alla legge Basaglia? Cioè, quello che sta dicendo Foucault è che il folle non ha uno statuto ontologico sempiterno in sé, ma come tutte le categorie è una costruzione storica. Da qui, quando le scrive forse inconsapevolmente, poi sicuramente in maniera molto più consapevole, costruisce queste categorie, cioè associa questo tipo di analisi al tema del soggetto. Infine, ho cercato di studiare, terzo punto, e questo è il lavoro che sto conducendo attualmente, il modo in cui un essere umano trasforma se stesso in soggetto. E il metodo, il chiavistello, quello che dal 77 in poi chiamerà dispositivo, tramite cui cerca di comprendere, di analizzare questo aspetto, è la sessualità. Attenzione, la sessualità negli ultimi 8 anni della produzione di Foucault non rappresenta un fine. La sessualità è un dispositivo di ricerca, è uno sfondo da investigare per capire di nuovo, in maniera diversa, in una nuova maniera, il soggetto. Non sto ad elencare i libri, vado un po' più veloce. E quindi qua con una frase molto tranchante, perciò non è il potere a costituire il tema generale delle mie ricerche, ma il soggetto. Andiamo oltre. E qua entriamo in una serie di appunti di metodo. Abbiamo definito, qua Foucault in questa prima pagina ha detto, io mi sono occupato per tutta la mia produzione teorica del soggetto, adesso inizia a darci degli appunti di metodo. Allora, ce li dà sulla teoria del potere, ma non è fondamentale. Abbiamo bisogno di una teoria del potere, all'inizio della seconda pagina. Dal momento che ogni teoria presuppone una oggettivazione preliminare, non può essere utilizzata come base per il lavoro analitico. Foucault qua sta dicendo una cosa di nuovo, la filosofia con il martello. Sta dicendo, se io ereditassi una di queste oggettivazioni storiche e costruissi una teoria sopra questo, starei facendo del lavoro puramente vano. Cioè, non farei nient'altro che continuare con quello che ho analizzato. Tale lavoro analitico non può essere svolto senza una conseguente e costante concettualizzazione, la quale implica un pensiero critico, una verifica costante. Le parole chiave sono pensiero critico e verifica costante. Quindi, messa in discussione continua, il pensiero critico, verifica costante. Foucault è un attentissimo analizzatore della storia e delle pratiche. Analizzare le pratiche significa che, non lo so, per fare un esempio molto banale, io qui dentro ho degli oggetti che costruiscono la mia identità tanto quanto tutto l'apparato teorico che io posso costruire sulla mia identità, che sono, non lo so, un codice fiscale, che sono dei bancomat, che sono un tesserino che mi qualifica come dipendente, che sono una carta d'identità. Senza la carta d'identità non sarei un cittadino, senza la cittadinanza che cosa sarei in questo momento storico? Foucault va a guardare queste cose. L'attenzione e la sua ricerca va tanto sempre in questa direzione. Quando si leggono gli appunti delle sue lezioni, va a citare degli autori che veramente erano totalmente dimenticati, ma perché lui lì va a trovare qualcosa che è significativo per parlare delle esistenze vere. Bisogna controllare in primo luogo ciò che chiamerei necessità concettuali. Intendo con ciò che la concettualizzazione non deve essere fondata su una teoria dell'oggetto, perché l'oggetto concettualizzato non è il solo criterio di validità per una concettualizzazione. E qua arriva il punto fondamentale. Dobbiamo conoscere le condizioni storiche che provocano le nostre concettualizzazioni. Cioè, noi dobbiamo saper leggere bene, saper ricercare bene il qui e ora che portano alla nascita dei concetti. Non c'è una derivazione causale, ingenua. Non c'è una relazione marxiana o post-marxiana struttura-sovrastruttura. Foucault sta dicendo, in questo momento, che noi dobbiamo sempre prendere in considerazione la storia per poter fare teoria. E questa presa in considerazione della storia che conseguenze ha? Questa frase, appunto, che sembrano parole carine, retoriche, ha una conseguenza fondamentale. Foucault sta dicendo in questo momento che ogni conoscenza è storica. Foucault sta demolendo quei 2000 anni, 2500 anni di tradizione del soggetto di cui stavamo parlando nelle 3 ore precedenti. Foucault sta dicendo che non c'è nessun fondamento, che noi, in quanto esseri umani che pensano, siamo inevitabilmente consegnati alla storia. La storia non è l'histoire bataille, non è il fatto che c'è una dichiarazione di guerra alla Polonia e ne esce una seconda guerra mondiale. La storia è sapere e prendere in considerazione sempre il fatto che arriviamo da un processo temporale e che tutto quello che siamo, tutto quello che studiamo, si è costruito all'interno di questo processo temporale, che non è un processo temporale astratto, è un processo temporale assolutamente concreto. È il processo temporale su cui noi collochiamo le nostre vite di singoli individui. E questo è il primo punto, cioè questo essere ancorati alla storia è l'essere ancorati a qualcosa che è sempre relativo. Secondo punto, la seconda cosa da verificare è il tipo di realtà che dobbiamo affrontare. Perché il tipo di realtà che dobbiamo affrontare? Noi possiamo occuparci della nostra vita di tantissimi aspetti. Probabilmente ce ne sono alcuni più rilevanti e altri meno riguardo alla nostra cultura. Quello che Foucault sta dicendo qui è: cerchiamo di pensare quello che ha un minimo di importanza se vogliamo esercitare la nostra funzione intellettuale. Cioè sta dicendo, possiamo dedicarci anche al nulla, possiamo dedicarci al futile, benissimo, ma questa ricerca, la mia ricerca, non va in quella direzione. Che cosa poi dobbiamo andare ad investigare? C'è una frase interessante. Si tratta, qua ho tagliato mezza pagina, di fatti assai banali di cui tutti sono consapevoli. Ma il fatto che siano banali non significa che essi non esistano. Il fatto che io abbia in tasca questo documento che mi identifica come il dipendente di una determinata azienda è un fatto banale. Io nella mia vita non penso a questo documento. Però questo documento nella mia vita è più significativo di quello che si può pensare. Ciò che dobbiamo fare con dei fatti banali è di scoprire, o almeno cercare di scoprire, quale problema specifico o forse originale sia connesso con essi. Cioè, quello che ci sta dicendo Foucault non è elogiare la banalità, è l'opposto, è porre la banalità come problema, perché la banalità è quello che costruisce la nostra esistenza. Vi vorrei leggere un passo di Nietzsche, dalla Gaia Scienza. Il conosciuto, qua lo sto usando un po' impropriamente come sinonimo di banale, il conosciuto significa ciò cui siamo abbastanza abituati per non stupircene più. La nostra vita quotidiana, una regola qualunque che ci impegni, una cosa familiare, insomma. Il conosciuto è l'abituale, e l'abituale è quel che è più difficile da riconoscere, cioè da considerare in quanto problema, come estraneo, lontano, situato fuori da noi. L'ora in cui puntiamo la sveglia, il nostro menù di pranzo. Magari non è il caso di investigare queste cose, però la banalità della nostra esistenza sono questi aspetti. È quello che noi non vediamo, è quello che noi tendiamo meglio a non vedere più. Foucault sta dicendo, la mia ricerca vuole andare a problematizzare anche questi aspetti. Perché? Perché io voglio rispondere alla domanda sul soggetto, e la domanda sul soggetto, che è un soggetto storico, è un soggetto relativo, è un soggetto che vive un qui e ora, deve passare da questi aspetti. Continua. Foucault si trova poi ad affrontare il problema della razionalità. Voglio passare abbastanza in fretta sul problema della razionalità, su cui spende circa una pagina, nel caso può essere letta, è molto semplice. Voglio solo leggere questa citazione, penso a metà di pagina 3. Sarebbe meglio considerare la razionalizzazione della società o della cultura non come totalità e analizzare un tale processo in diversi campi, in cui ciascuno rimanda a un'esperienza fondamentale: la follia, la malattia, la morte, il crimine, la sessualità. Questo passaggio è importante. Foucault sta dicendo: non mi interessa, non voglio costruire una teoria filosofica sul modello, poniamo, hegeliano, sul modello marxista, sul modello ermeneutico, fenomenologico, quello che volete. Cioè, non voglio costruire una teoria filosofica totale che mi vada ad esaurire in maniera razionale tutti i campi del sapere. Come diceva già Kierkegaard nella prima metà del 1800, ogni tentativo filosofico omnicomprensivo è solo una maniera di esorcizzare il dolore. Foucault sta dicendo qui: la totalità, la categoria della totalità è fasulla. Se io voglio esercitare la mia razionalità, secondo una formula che lui usa in altri passaggi, la devo esercitare come intellettuale specifico. L'intellettuale specifico non è l'intellettuale che parla di tutto perché possiede una teoria che permetta a lui di parlare di tutto, o possiede un sistema concettuale che gli permetta di parlare di tutto. L'intellettuale specifico è un intellettuale che va a scavare in uno specifico problema: la malattia e le prigioni, per esempio, come cita qui, la morte. È lì che ognuno di noi è invitato, ed è uno degli spiriti di questo seminario, uno dei motivi per cui alcuni di voi sono stati invitati a dire su che cosa vogliono lavorare, ok? Perché non esiste un apparato che vuole spiegare tutto, esiste forse una maniera di andare a scavare quello che interessa qualcuno. Vado avanti, che ore sono? 7:30, vado avanti un po' più veloce. E qua passiamo a un altro punto di metodo. Quello che ci ha insegnato l'illuminismo, anzi meglio, scusatemi, quello che l'illuminismo non è riuscito a esaurire è questo: che quando noi andiamo ad analizzare un fenomeno, dobbiamo andare a scavare nel profondo, e dobbiamo andare a scavare nel profondo della storia e della temporalità. Coevi di Foucault, e sicuramente c'è un'influenza foucaultiana su questo, è la scuola delle Annales, creata da Fernand Braudel. È storia, è una metodologia storica, ma è una metodologia storica che ha insegnato un aspetto fondamentale. Ha insegnato che l'histoire bataille, la storia spiegata per le battaglie, non serve a nulla. Se noi vogliamo comprendere la storia, dobbiamo andare a vedere i fenomeni di lunga durata. Foucault influenza ed è influenzato da questo. Foucault sta dicendo la stessa cosa: se noi dobbiamo comprendere che cosa sia la normalità, non dobbiamo descrivere la normalità adesso, dobbiamo andare a scavare storicamente per capire da dove è partito quel fenomeno storico che ha fatto sì che noi qua possiamo usare la parola normalità, oppure che hanno fatto sì che la parola follia sia diventata importante in un determinato apparato legislativo. È questo un altro dei grandi aspetti della produzione foucaultiana: non accontentarsi mai della risposta semplice, ma cercare sempre indietro nel tempo ciò che ha portato, ciò da cui è nato qualcosa di determinato. E sarà uno dei temi assolutamente fondamentali dei prossimi 12 appuntamenti: comprendere dove e quando nella nostra percezione di soggetti contemporanei sono nati certi processi. Qua taglio una parte che vorrei avrei voluto fare, ma non c'è tempo, per andare direttamente a pagina 5 ed entrare nel cuore del tema del soggetto. Adesso quindi abbiamo visto un riepilogo in cui Foucault parla della sua produzione. Abbiamo visto alcuni appunti di metodo che sembrano ingenui, ma in realtà sono assolutamente tranchant, perché sono lo smantellamento di qualsiasi ipotesi di fondamento del soggetto e della cultura. Adesso vorrei parlare di due aspetti, trattati sempre in queste 8 pagine. Uno è una prima risposta alla domanda cos'è il soggetto, e due è un esempio bellissimo che Foucault ci propone di ricostruzione del processo di soggettivazione. Allora, a fine di pagina 4, tutte le lotte contemporanee, la pagina e mezzo precedente è stata dedicata alle lotte, ruotano intorno alla domanda: chi siamo? Esse rappresentano un rifiuto di quelle astrazioni costituite dalla violenza economica e ideologica dello Stato, che ignora chi noi siamo individualmente, e sono anche un rifiuto dell'inquisizione scientifica o amministrativa che determina la nostra identità. Noi viviamo in un periodo di lotte. Perché viviamo in un periodo di lotte? Perché noi abbiamo una percezione della risposta alla domanda chi siamo noi stessi diversa rispetto a cosa? Rispetto a quella che, qua non usa questa parola, ma in questo periodo la sta usando, a quelli che identifica come dispositivi di soggettivazione potenti e forti: la violenza economica. Cioè il fatto che noi siamo inevitabilmente forzati ad entrare in un sistema produttivo che ci preesiste e che difficilmente, se non con la lotta, possiamo andare ad alterare. Contro lo Stato, una necessità storica per noi, ma non una necessità storica tout court. Foucault non è un anarchico, Foucault non è un comunista, Foucault è... Se dico politico, Antonio m'ammazza. No, non va bene. Foucault è una persona che propone un'analisi politica assolutamente non convenzionale, e questa analisi politica non convenzionale mette in discussione radicalmente lo statuto dello Stato. Noi sappiamo benissimo che noi occidentali non possiamo non pensarci in uno Stato, ok? Quello che sta dicendo Foucault è: va bene, continuiamo a non pensarci in uno Stato, tuttavia sappiamo, siamo consapevoli che questo posizionarci in uno Stato di conseguenze ne ha, e ne ha assolutamente tante. Quando nasce un bambino, la prima cosa che va fatta entro le 24 ore è dargli un codice fiscale, dargli un nome e registrarlo presso un anagrafe. Ok? E questo dopo una punturina iniziale sono le prime tre cose che vanno fatte. Ecco, è lì che forse dobbiamo andare a problematizzare le cose. Cioè, questo essere umano non ha un'esistenza se non con lo Stato. Aggiunge una cosa interessantissima Foucault, che ignora chi noi siamo individualmente. Cioè, sta dicendo, lo Stato occidentale, questo poi lo articolerà molto meglio anche dopo, però sta dicendo lo Stato ci trasforma in un numero, lo Stato ci trasforma in un elemento di una statistica. Questo non è solo un aspetto amministrativo, questo è una modalità di vivere, la percezione di noi stessi non più come individui ma come membri di una totalità, molto probabilmente di una totalità numerica. E poi, l'inquisizione scientifica. Cos'è questa inquisizione scientifica? L'inquisizione scientifica ci sta divorando. Noi in Italia ci siamo sempre nutriti. Adesso noi in Italia ci nutriamo andando a guardare la tabellina dei carboidrati che c'è sull'oggetto che compriamo al supermercato. Queste sono forme di inquisizione scientifica. Cioè, è la scienza che è andata a penetrare tutta una serie di aspetti dell'esistenza che ignoravamo completamente. Inquisizione scientifica, appunto, che si esercita anche in altri modi molto più violenti. Noi possiamo considerarci sani, però se ci consideriamo malati e quindi ci curiamo in maniera da considerarci malati per evitare di essere malati, di essere sani, è meglio. Cioè, se facciamo dei check-up, cioè se compriamo delle medicine, cioè se l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbassa di 10 punti il valore della pressione massima, lo porto da 130 a 120, penso che tutti noi in questa sala diventiamo improvvisamente malati. È questa l'inquisizione scientifica ed è qualcosa di anche molto più complesso. E poi l'inquisizione amministrativa, quello che noi viviamo tutti i giorni, il soft paternalism, il fatto che noi siamo invitati da uno Stato italiano, se non riusciamo a ricevere una raccomandata, perdere 2 ore per ritrovarla. Esempi assolutamente banali, ma esempi che influenzano la vita. Arriviamo però al soggetto. Vi chiedo ancora 20 minuti di attenzione. Questa forma di potere, di cui vi parlo adesso, sulla vita quotidiana immediata, che classifica gli individui in categorie, li marca attraverso la propria individualità, fissa la loro identità, impone loro una legge di verità che essi devono riconoscere e che gli altri devono riconoscere in loro. Cioè, noi dobbiamo percepire noi stessi perché abbiamo intorno una serie di dispositivi di potere che ci invitano a recepire noi stessi in una determinata maniera. È un tipo di potere, quella frase pesante, che trasforma gli individui nel senso noi come unità, noi come esseri umani differenti, in soggetti. Ok? Ci sono 2 significati della parola soggetto. Il primo, e qua arriviamo al punto fondamentale. Soggetto in italiano suona molto bene, nel senso di soggetto a qualcun altro attraverso il controllo e la dipendenza. Infatti l'inglese usa soggetto anche per tradurre suddito. Questo è assolutamente il senso della parola soggetto nel senso italiano di suddito. Noi siamo sudditi del potere di qualcun altro. Noi siamo sudditi nel senso che siamo assoggettati ad un potere. Foucault poi fa un'analisi finissima, che vedremo chiaramente, dedicheremo almeno 2 lezioni a questo, attraverso il controllo e la dipendenza. Cioè la forma in cui il potere si esercita su di noi non è il potere che schiaccia, è il potere che controlla le nostre esistenze. Questo è un accenno brevissimo, ma dedicheremo 4 o 6 ore a questo aspetto. E poi il secondo punto, il soggetto vincolato alla sua propria identità, cioè io che percepisco e penso a Mosbianchi come me stesso, dalla coscienza o dalla conoscenza di sé. Come dicevano già gli stoici, non c'è nessun però non c'è nessun potere se non peggiore di quello a cui qualcuno assoggetta se stesso. Cioè, noi possiamo considerare non uccidere, per fare un esempio semplice, come una legge esterna. Il primo caso, siamo sudditi a una legge, ma noi il non uccidere l'abbiamo introiettato. Noi non uccidere lo consideriamo come una legge, in questo caso poi non lo useremo più, una legge morale, un codice di condotta. Ma non, c'è qualcosa di molto più raffinato anche di non uccidere all'interno di tutte le decisioni, le scelte, la modalità di vivere che noi operiamo quotidianamente. Noi tutte queste regole ce le autoimponiamo. E il punto di Foucault è questo. Questo apparato che è dentro di noi, non in chiave psicanalitica, assolutamente. Questo apparato che è dentro di noi, noi lo accettiamo. L'abbiamo introiettato, l'abbiamo fatto nostro. Però questa cosa determina la nostra esistenza. Quello a cui ci invita Foucault è: cerchiamo di pensare come problema anche quello della coscienza e della conoscenza che noi abbiamo di noi stessi e di non lasciarlo come un tema inesplorato, perché questo è una modalità di assoggettamento è la seconda modalità di assoggettamento. La prima modalità di assoggettamento, assoggettamento, cioè la prima modalità con cui noi diventiamo soggetti, è quella del potere esterno. La seconda modalità di assoggettamento è quella in cui noi ci imponiamo delle regole, come dirà il Foucault di questo periodo, e dedicheremo le ultime due lezioni a questo, ci imponiamo dei regimi di verità. È chiaro? Benissimo. E quindi qui dice esistono tre tipi di lotte: quello contro le forme di dominazione, contro le forme di sfruttamento, oppure contro tutto ciò che lega l'individuo a se stesso e assicura così la sua sottomissione agli altri. E questo è un punto tipicamente foucaultiano. Anche Deleuze forse in maniera più violenta lavorerà su questo punto. Quanti minuti ho? 7:40. Perfetto. Qua abbiamo dato questa definizione, quindi, di soggetto. È un'altra definizione tranchant. Il fatto che sia semplice, il fatto che sia chiara, non significa che sia una definizione banale. Anzi, è una definizione pesantissima. Brevissima parentesi. Qui Foucault sta parlando di soggetto e potere. E quindi è una delle definizioni di soggetto che daremo. Una delle cose che vorrei si sviluppasse metodologicamente all'interno di questo seminario è il fatto che nessuno di noi voglia arrivare a degli ambiti definitori, a degli ambiti di classificazione definitivi e per forza coerenti. Il pensiero si può articolare in tanti modi. C'è un pensiero monotematico, che è quello che comunque noi apprendiamo alle elementari, alle medie e anche in parte delle scuole superiori. Le cose sono così perché sono così. C'è un pensiero dialettico, che è il pensiero che problematizza, il pensiero monotematico, che è il pensiero che ci fa dire le cose sono così, ma c'è anche un negativo di questa posizione. E poi c'è un pensiero complesso. I punti fondamentali del pensiero complesso sono il fatto di accettare che non esiste un pensiero definitivo, mai, su nulla. Accettare che esistano delle parole polisemiche, delle parole che storicamente hanno acquisito tanti significati e potranno continuare ad acquisirne tanti. Accettare che si possano dare in stessi ambiti di ricerca pensieri assolutamente incoerenti, pensieri contraddittori, ma il pensiero complesso cerca di mettere in relazione, non di dividere, questi pensieri contraddittori, per cui la psicanalisi mi può dare un tipo di risposta, la biologia me ne può dare un'altra, e non c'è un vero e un falso definito. E il pensiero complesso poi è destinato all'autodistruzione, cioè accettando per definizione di essere storico, prima o poi finirà. Quindi questo per dire cosa? Per dire che ricercare la definizione a tutti i costi, la vecchia domanda socratica, il TST, il che cos'è, è ormai, ha dominato 2500 anni di cultura occidentale, ma ormai sarebbe meglio iniziare a pensare in una maniera che ci faccia superare completamente l'ossessione della definizione. Perché l'ossessione della definizione, Foucault avrebbe detto, ricerchiamo storicamente perché, ok? Foucault avrebbe detto è fascista, ok? Quindi forse è il caso di capire che semplicemente qua si sono date due definizioni di soggetto, probabilmente troveremo altri 4, 5, 6, 8, 10 passaggi che ci parlano altrettanto del soggetto. E quindi, per tornare sul seminato, la ragione per cui, inizio di pagina 6, la ragione per cui questo tipo di lotta tende a prevalere nella nostra società consiste nel fatto che a partire dal XVI secolo si è ininterrottamente sviluppata una nuova forma politica di potere. Come tutti sanno, questa nuova struttura politica è lo Stato. Per lo più lo Stato viene considerato come un tipo politico di potere politico che ignora gli individui. Potere politico, cioè lo Stato non è qualcosa di assoluto, lo Stato è un qualcosa che l'uomo ha inventato per gestire le relazioni fra gli individui in una certa maniera. Ciò è assolutamente vero. vorrei sottolineare il fatto che il potere dello Stato è una forma di potere a un tempo individualizzante e totalizzante. Questa è un'intuizione foucaultiana che poi andremo a spiegare, stupenda. Penso che non sia mai esistita nella storia delle società umane, neppure nell'antica società cinese, una combinazione così complessa all'interno delle stesse strutture politiche di tecniche di individualizzazione, cioè che ci dicono tu rispondi a te stesso, Amos Bianchi, sei questo, e di procedure di totalizzazione, cioè qualcosa che comunque mi svuota e mi fa sentire parte di un apparato incredibilmente più grande di me. E qua Foucault, in un passaggio semplicissimo e chiarissimo, dice perché. Ciò, perché, scusatemi, è anche interessante, perché noi viviamo una condizione disagiata? Abbiamo la speranza di vita media più alta del mondo, dopo tutto. Abbiamo le condizioni materiali migliori che qualunque esistenza umana abbia trovato. Siamo degli occidentali che vivono in stati che più o meno funzionano. Abbiamo alle basi la democrazia che ci potrebbe garantire, tra tutte le definizioni che sono state date, che il nostro corpo non verrà toccato se non previa nostra autorizzazione durante la nostra vita, eppure questo disagio da che cosa arriva? E Foucault risponde: deriva dal fatto che c'è un sistema che in un certo senso complesso, talmente complesso che quasi ci stritola. E cosa dice? Come è nato questo sistema? Ciò è dovuto al fatto che lo Stato occidentale, moderno, ha integrato in una forma politica nuova una vecchia tecnica di potere che aveva avuto origine nelle istituzioni cristiane. Possiamo chiamare questa tecnica di potere, potere pastorale. Un accenno alla genealogia, cioè andare a ritrovare storicamente dove nascono determinati macrofenomeni. Qua il macrofenomeno è lo Stato moderno, è in grado di toccarci come persone, lo Stato moderno occidentale. Perché è in grado di toccarci come persone? Perché lo Stato moderno occidentale, che si codifica nel XVI secolo, prende di peso un tipo di potere che non gli era proprio e lo fa diventare proprio. Questo potere è un potere inventato all'interno di un dispositivo religioso, non statuale, dispositivo che si chiama cristianesimo, dispositivo che è in grado di lavorare sull'individuo, e poi ci dice come. Tuttavia si insiste meno di solito sul fatto che il cristianesimo ha proposto ed esteso nuove relazioni di potere a tutto il mondo antico. Di nuovo qua sta scavando, sta dicendo il cristianesimo non è andare a messa, il cristianesimo è una tradizione storica ben precisa che certo nasce tra pastori e pescatori, no, pastori forse no, sì, vabbè, quel che è, pescatori in Galilea, 2000 anni fa, un po' più di 2000, no, un po' meno di 2000 anni fa, diventa una religione di città quando viene tradotto in greco, diventa 2 secoli e mezzo dopo una religione di Stato, diventa un potere che dialoga con il potere dello Stato medievale e così via. E il cristianesimo si porta dietro tutti questi aspetti e li consegna allo Stato. E infatti qua dice, il cristianesimo è la sola religione a essersi organizzata come chiesa. Il buddismo non poteva dare alla Cina, qualsiasi Cina, questo aspetto. O altre religioni che adesso non voglio citare, o l'induismo all'India, quello che volete. Lo dà il cristianesimo allo Stato moderno perché c'è una contiguità storica, temporale e territoriale e perché il cristianesimo si era fatto le ossa con il governo dei viventi. Un governo dei viventi che non era solamente un governo dell'anima dei viventi, ma era un governo dei viventi vero. Era un prendersi cura di tutti gli aspetti della vita delle persone. Prendersi cura che troviamo adesso, ancora adesso, la Caritas, le mense dei poveri, il volontariato, ok? Il cristianesimo questa cosa ce l'ha. Il cristianesimo, al di fuori di una forma statale, era riuscito a bilanciare, era riuscito a creare questo aspetto. Lo Stato moderno se lo prende. E la Chiesa, l'Ecclesia, la comunità è il nome di questo tipo di istituzione. In quanto tale postula come principio generale che alcuni individui, in virtù dei loro attributi religiosi, siano dati a servirne altri, non in qualità di principi, magistrati, profeti, indovini, benefattori o educatori, ma in quanto pastori. Ecco il potere pastorale. Ok? Tuttavia questa parola designa una forma di potere molto particolare. Quindi, qua Foucault sta spiegando, vi spiego un aspetto del cristianesimo, perché voi però pensiate come lo Stato moderno occidentale che vi fa vivere l'abbia preso e lo stia utilizzando verso di voi. Primo, assicurare la salvezza individuale nell'aldilà. Quindi lo Stato che ci deve dare un'ipotesi di salvezza. Qual è questa salvezza? Appunto, non essere toccati nel corpo, cercare di vivere a lungo. Esso è una salvezza che magari si colloca nell'aldiquà, non si colloca più nell'aldilà. Il potere pastorale non è semplicemente una forma di potere che ordina, deve essere anche preparato a sacrificare se stesso per la vita e la salvezza del gregge. È una forma di potere che non si preoccupa della comunità nel suo insieme, ma di ogni individuo particolare. Chi ha una formazione o ha incrociato una formazione cristiana o ce l'ha tuttora nella sua vita, capirà assolutamente. Infine, questa forma di potere non può essere esercitata senza conoscere ciò che accade all'interno della mente degli uomini, senza esplorare le loro anime, senza costringerli a rivelare i loro più profondi segreti. Essa implica una conoscenza della coscienza e la capacità di dirigerla. Non lo chiamiamo più anima, però la conoscenza della coscienza c'è. Non solo nello Stato, c'è nelle aziende. Quando per arrivare a certi livelli dirigenziali bisogna fare il test di Rorschach o altre strutture che derivano dalla psicanalisi, si sta esercitando questo tipo di potere pastorale da parte dell'azienda. E quindi, dice Foucault, pagina dopo, intorno al XVIII secolo ha avuto luogo un importante fenomeno. Vi è stata una nuova distribuzione, una nuova organizzazione di questo potere individualizzante, cioè di questo potere rivolto agli individui. Leggo il punto 1 e il punto 3 dell'elenco che segue. È possibile osservare un cambiamento nei suoi obiettivi, negli obiettivi di questo potere. Il problema non è più stato quello di guidare gli uomini alla salvezza nell'altro mondo, ma piuttosto di assicurarla in questo. In tale contesto la parola salvezza acquista significati diversi. Salute sarebbe lo Stato ci vuole far star bene. Benessere, vale a dire ricchezze sufficienti, standard di vita. Questa sarà una parte fondamentale che vedremo intorno all'ottava nona lezione, il passaggio dal potere di morte al potere di vita. Sicurezza, cioè sono tutte parole nell'agenda setting contemporanea queste. Foucault non sta parlando di cose astratte, sta dicendo queste cose non le ritroviamo perché c'erano nel cristianesimo e lo Stato moderno se le ha pigliate dal cristianesimo e le ha messe nel suo apparato. Protezione contro gli incidenti. E poi secondo punto, perché i funzionari del potere pastorale sono aumentati, sono l'apparato statale moderno. Terzo punto. La moltiplicazione, inizio pagina 8, degli obiettivi e degli agenti del potere pastorale ha permesso di focalizzare lo sviluppo del sapere sull'uomo attorno a due ruoli, ed è un po' la chiusura di questo discorso. L'uno globalizzante e quantitativo, incentrato sulla popolazione. La popolazione è un'altra grandissima invenzione dello Stato moderno. Il 20% di noi ha problemi cardiocircolatori, l'11% della popolazione è disoccupato. Siamo il 99%. L'altro, analitico, rivolto all'individuo. Quindi il doppio binario della modernità che crea la complessità della nostra esistenza è questo. Da un lato un numero che va a comporre una statistica, un certo tipo di potere, dall'altro un altro tipo di potere, anzi meglio no, perdonatemi, un tipo di potere che riesce a dividere in questi due aspetti la nostra esistenza. Vedremo poi meglio come si va ad articolare questo. Continuando, Una delle conseguenze è stata che il potere pastorale, il quale per più di un millennio era stato legato a una particolare istituzione religiosa, si diffuse improvvisamente all'interno del corpo, nell'intero corpo sociale, scusate, trovando sostegno in una moltitudine di istituzioni. E al posto di un potere pastorale e di un potere politico, più o meno legati tra di loro, più o meno antagonisti, si vide lo sviluppo di una tattica individualizzante che caratterizzava una serie di poteri. Quindi chiaramente un'esistenza nostra che non è caratterizzata da due poli, politico-religioso, politico-pastorale, famiglia, medicina, psichiatria, educazione, padroni, è un bel elenco piuttosto significativo. L'invito di Foucault è: mettiamo in discussione questo parere. E poi andiamo a chiudere, perché comunque siamo verso la fine. Quindi, terzo punto, una definizione di potere. Di soggetto. Quarto punto, un esempio di processo di soggettivazione che passa attraverso un'analisi del potere. Quinto punto, chiude su Kant. Kant è uno dei riferimenti costanti di Foucault e cita un testo minore di Kant. Alla fine del XVIII secolo, Kant scrisse in un periodico tedesco, il Berliner Monatsschrift, la pronuncia è quella che è, un breve testo il cui titolo era Was heißt Aufklärung? Che cosa significa l'illuminismo? Per molto tempo esso venne considerato, ancora oggi lo si considera tale, un lavoro di relativa importanza. Tuttavia penso che tale lavoro risulti estremamente interessante, in un certo senso anche imbarazzante, perché qui per la prima volta un filosofo si propone il compito filosofico di analizzare non solo il sistema metafisico, i fondamenti del sapere scientifico, ma anche un evento storico, anzi un evento recente, addirittura contemporaneo. Quando nel 1784 Kant chiede che cos'è l'illuminismo, mi sembra sia stato tradotto così, egli voleva dire che cosa sta accadendo attualmente, che cosa ci sta succedendo, che cos'è questo mondo, questo periodo, questo preciso momento in cui noi stiamo vivendo. La domanda non è oziosa. Perché non è oziosa? Perché Foucault ci sta riportando alla questione del fine della ricerca, ci sta dicendo: non facciamo ricerche vane, non facciamo filologia sterile, non facciamo genealogia inutile. Sta dicendo: c'è un problema, e questo problema è il presente. Kant se l'era posto 220 anni fa, forse per la prima volta nella storia della filosofia, quando cerca di rispondere alla domanda sul macro fenomeno che sta accadendo in quel momento, l'illuminismo. Ok? In altre parole, che cosa siamo in quanto Aufklärer, in quanto parte dell'illuminismo? Si confronti questa domanda, e qui di nuovo il martello contro le tre ore con cui è partito il seminario, si confronti questa domanda con quella cartesiana: chi sono io? Io in quanto soggetto unico ma universale e astorico, io per Descartes è chiunque, in qualunque luogo, in ogni momento. Ma Kant si chiede qualcosa di diverso, ossia che cosa siamo in un determinato momento della storia. La domanda di Kant appare come un'analisi sia di noi stessi che del nostro presente. Ecco il fine della ricerca: noi stessi, il nostro presente. Noi, quando Foucault parla di noi, non sta parlando di comunità, non sta parlando di globalità, non sta parlando di popolazione, sta parlando di noi stessi, individui, soggetti, e il nostro presente. Quindi quello che noi studiamo, quello che noi vorremmo studiare, è il tempo in cui viviamo. E poi penso che questo aspetto della filosofia sia diventato sempre più importante. Hegel, non a caso 30 anni dopo Kant, costruisce un magnifico, enorme apparato concettuale che crolla, ma lo costruisce, e questo apparato concettuale addirittura ha l'idea di far finire il presente, di far terminare la storia. Nietzsche, che martellando la filosofia in una maniera diversa da Foucault, si pone il problema del tempo in maniera radicale. Forse il più rilevante di tutti i problemi filosofici è il problema del presente e di ciò che siamo in questo preciso momento. Forse l'obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto, e qua c'è il Foucault cattivo, radicale, pesante degli ultimi anni, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo, di problematizzare così tanto quello che siamo per rifiutarlo. Non dico per essere antagonisti, però per negare quello che siamo, per riuscire a negare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare per sbarazzarci poi di quella sorta di doppio legame politico costituito dall'individualizzazione e dalla totalizzazione simultanea delle strutture del potere moderno. Ecco perché dobbiamo esercitare questo rifiuto, per non essere schiacciati né come individui né come totalità. E qua concludo, conclude Foucault, concludo io. La conclusione potrebbe essere che il problema politico, etico, sociale e filosofico, quattro parole importanti oggi, non è tanto di liberare l'individuo dallo Stato e dalle sue istituzioni, ok? Non è l'anarchia, forse non è la rivoluzione. Foucault è odiato dai comunisti, e vedremo nell'ultima lezione, quanto liberare noi stessi sia dallo Stato che dal tipo di individualizzazione che è legato allo Stato. Occorre promuovere nuove forme di soggettività attraverso il rifiuto di quel tipo di individualità che ci è stato imposto per così tanti secoli. Quindi non rifiutare lo Stato, non andare contro lo Stato, ma rifiutare quella parte di noi stessi che riconosciamo essere stata creata. Creata è una parola che non sarebbe piaciuta a Foucault, che è stata condizionata, modellata, generata, articolata dal potere di cui abbiamo parlato prima. Finito. Domande? Nel caso possiamo rivederle anche la prossima volta. Oggi, due note su Heidegger e su Husserl. Questa è stata un'introduzione a Foucault basata su un testo semplice, ma da cui spero sia uscito quelli che sono i punti, alcuni dei punti fondamentali. Dietro queste frasi c'è molto lavoro, c'è molta ricerca. Lo scopo dei prossimi appuntamenti sarà giustificare, cioè rendere giusta, andare a vedere come dal 61 all'82, poi leggeremo anche qualcosa di scritto dopo l'82, è andato a trovare questi elementi. Nel prossimo appuntamento del seminario ci sarà Antonio Caronia a presentare il problema della ragione-sragione. Quindi il primo Foucault, il Foucault che esce dalla Francia, che si impone con quell'analisi della follia, quell'analisi di tutta una serie di altri discorsi legati alla ragione, assolutamente nuovi e che fanno apparire che qualcosa di nuovo nella tradizione occidentale e che iniziano a far mettere in prospettiva diversa tutta una serie di temi legati al soggetto. Grazie a tutti.